Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Heinz Beck, 50 anni, tedesco di origine, ma romano d'adozione, pittore mancato, chef stellato. Due ristoranti a Tokyo, due a Dubai, uno al Algarve e uno e tre in Italia. Nella vita non scegli dove nasci, ma scegli dove vivi, dice. Da 20 anni vive a Roma e dirige il ristorante La Pergola. Dice anche: potrei rinunciare a una bistecca, ma mai a frutta e verdura. Il suo motto è cucinare bene per vivere meglio. Nella sua cucina crea piatti raffinati, coltiva talenti e usa strumenti tecnologici. Qualcuno dice: il prezzo di un piatto è giustificato dal fatto che l'idea di uno chef vale come quella di un designer alla Stark. È vero secondo lei? Guarda, non solo, però c'è anche molto lavoro dietro tutti i piatti. Una materia prima eccellente. Se andiamo al supermercato, o non al supermercato, ma nei vari mercati, vediamo quanto costa la materia prima. Ma l'educazione alimentare inizia con il carrello della spesa? Sì, perché solo con quello che compriamo possiamo fare dei piatti buoni. Ma c'è qualche ingrediente che lei non usa mai? Ostriche. Ho un'allergia. Nella sua cucina, l'abbiamo detto, usa strumenti tecnologici, come il gastrovac. Ma che cos'è il gastrovac? Sembra uno strumento di tortura tedesco, appunto. Cos'è? È una pentola a pressione con temperatura controllata. Noi conosciamo tutte le pentole a temperatura, a pressione, ma lì abbiamo un punto in più, che possiamo determinare la temperatura e cucinare le verdure a 40 gradi senza di perdere le nutrienti. Ma il liofilizzatore invece per cosa serve? Per disidratare le frutta e verdura a temperatura bassissima senza perdere anche nutrienti. Ma dunque, una cucina d'avanguardia, ma la cucina non è soprattutto storia e tradizione? Nasce tutto con la storia, nasce tutto con le nostre tradizioni. Noi siamo piccolo granello che dobbiamo portare avanti queste tradizioni e dove è possibile magari migliorare un po'. Ecco, senta Heinz, un giorno qui da noi Pierangelini, che è un grande chef, mi ha detto che il piatto più difficile da fare per lui sono gli spaghetti al pomodoro e basilico. È così anche per lei? Sì, sono difficilissimi, perché devi essere a 100% preciso, e comincia con l'acquisto dei pomodori, dei spaghetti. Sono 3 ingredienti e devono tutti e 3 essere perfetti. Perfetti. Senta, per lei Beck, qual è il piatto più difficile da fare? Ah, fare un bel minestrone, per esempio. È difficilissimo, perché mantenere la verdura perfetto fino alla fine è difficile. Devi sapere le cotture di ognuno, quanto devi mettere, quale verdure, e farla perfetto è difficile. Ma le cucine che normalmente vengono celebrate nel mondo sono quella italiana, quella francese, invece lei è tedesco. Cosa c'è di tedesco nella sua cucina? Ma magari il rigore. Il rigore, quindi nell'organizzazione soprattutto. Sì, perché ma è una cucina buona quella tedesca? Sì, gli ultimi anni sono usciti dei chef molto bravi, hanno fatto tantissimo a recuperare. Una volta non era così. Comunque lei si è innamorata della cucina italiana, è merito anche della moglie siciliana? Certo, Teresa è la mia musa ispiratrice. Su tutto? Su tutto. Fantastica. E cosa c'è di siciliano nei suoi piatti? I profumi. I profumi. Ecco, Heinz Beck, ma la sua cucina è più italiana, più francese o più e basta? Del cuore. Del cuore, cucina del cuore. Le faccio sentire un file a proposito del ruolo dei critici gastronomici, che sono molto di moda. Senta qua. Ma ci sono occasioni in cui un critico qualcosa rischia davvero. Ad esempio nello scoprire e difendere il nuovo. Il mondo è spesso avverso ai nuovi talenti e alle nuove creazioni. Al nuovo servono sostenitori. Ecco, era il film Ratatouille. È d'accordo sul fatto che al nuovo servono sostenitori? È capitato anche a lei di capirlo? Sì, sostenitore e idee. Ma contano davvero i critici gastronomici? Sì, certo, perché noi sappiamo dove andare a mangiare, dove viviamo, ma appena andiamo fuori non lo sappiamo, dobbiamo più sapere, certo. Dobbiamo avere qualcuno che ci dice qualcosa. Ecco, ma Quando un critico viene nel suo ristorante, lei o il suo staff riuscite più o meno a riconoscerlo? Magari. Senta Beck, ma che cosa c'è di veramente nuovo nella sua di cucina? La salute abbinato al gusto, e questo è veramente nuovo, perché prima si pensava una cucina di gusto deve essere per forza pesante e difficile a digerire, e io cerco con i nuovi metodi di conservare il gusto ma di tenere la salute, ecco. Ma è questo che le ha fatto meritare le 3 stelle della Michelin? Questo lo sa solo la Michelin. Ah, lo sa solo la Michelin. Ma quali sono i criteri con cui vengono assegnate queste stelle? Se lo sapessi, sarebbe molto più facile. E quindi non sa neanche quelli con cui vengono tolte le stelle? No. Però è sempre brutto quanto vengono tolte. È veramente drammatico. Ma avere stelle Michelin significa anche far pagare tantissimo il pranzo, così, no? Non necessariamente. Però le stelle Michelin con i prezzi bassi si vedono poco. Si vedono poco, ma esistono pure. Senta, lei comunque, Heinz, oggi è uno degli chef più famosi al mondo. Ma non è nato con il sogno di fare lo chef. Lo è diventato perché suo padre un giorno ha lanciato una monetina, ha fatto una scelta fra lei e suo fratello. Com'è andata? Mi racconta in 2 parole. Com'è andata? Sì, io volevo fare il pittore, il fratello il cuoco. Papà dice: nessun pittore, perché la pittura non è un lavoro e può essere solo un hobby. Ho detto io: va bene, faccio anch'io lo chef. E lui ha detto: tu i chef in famiglia non li voglio. Ha lanciato la moneta e lo chef sono diventato io. Ah, e il fratello cosa ha fatto? Lui è albergatore, che ha un albergo in Inghilterra. È contento o no? Lui è felice, sì. Insomma, e lei allora è diventato il cuoco. Ma quando ha capito che invece fare il cuoco non per caso, ma ha interpretato una sua anima? Subito, perché avevo una forte spinta di fare sempre meglio. Curiosità, ricerca dal primo momento. Senta, ma mi dica una cosa, ha avuto dei buoni maestri? Bravi maestri, sì. Perché senza maestro tu non vai a nessuna parte. Ma sono necessari quindi bravi maestri? Sì, fondamentali. E chi è stato il suo maestro più bravo? Heinz Winkler. Alto Atesino, che ha un 3 stelle Michelin in Germania, ma ormai non più 3 stelle, ormai 2 stelle, però lui era quello che mi ha indirizzato nel modo giusto. Cosa le ha insegnato esattamente? L'equilibrio. Senta, ma poi nel 94 è arrivato a Roma, da dove non è più andato via? Ha conservato l'accento, ma perché non è più andato via? Perché Roma è la più bella città del mondo. Senta, però l'accento tedesco non l'ha perso. Mi dice qualcosa in romanesco? Mortacci vostri, però non si può dire a radio. No, l'ha detto bene. Senta, ma la carbonara lei come la fa? Io faccio i facotelli ripieni, cioè una pasta fresca ripieno con il sugo della carbonara. Tu lo mangi, esplodi in bocca e ti dà tutte le sensazioni della carbonara vera senza appesantire. E il cacio e pepe, il segreto suo? Li servo con i gamberi al lime, perché il lime apre le papille olfattive e ti fa respirare meglio, e li mangi con una cottura meravigliosa. Senta, lo scorso anno lei ha festeggiato 20 anni di carriera alla Pergola e per l'occasione ha preparato un menù particolare che sarebbe stato ripetuto solo 999 volte. Perché solo 999 volte? Perché io ho cercato un numero giusto, non deve essere troppo poco e non troppo tanto. A che numero è arrivato fino adesso? Noi abbiamo servito 999. Prima del fine dell'anno tutte 999. Senta, e cosa c'era nel menù? C'erano 20 piatti, c'erano dei piatti storici, ma pochissimi. Sì. Poi piatti... Vabbè, 20 non me li racconti tutti, ha fatto un menù speciale. Sì, ma soprattutto l'idea non era di fare una carrellata dei vecchi piatti, perciò pochi vecchi. Poi qualcuno del momento e qualcuno nuovo, diversi inediti, perché l'idea era da dove veniamo, dove siamo oggi, dove andiamo? Ma dove vogliamo andare soprattutto? Sulla luna. Sì. Sarebbe bello. Va bene. Sai, un bel cascio pepe alla luna. Pepe sulla luna non è male. Senta, vabbè, ho capito che da lei possono venire a mangiare solo i nababbi, non le chiedo neanche quanto costa, però vengono solo i ricchissimi da lei, insomma, più o meno. Non necessariamente, abbiamo anche tanti ragazzini che festeggiano qualcosa, sì, e lì sono sempre molto clemente. È clemente, questa clemente mi sembra una bella parola. Senta, io le dico un nome e lei mi deve immaginare un piatto da preparargli. La Merkel, cosa le facciamo? La sfera a melograno con crema di gianduia, perché il melograno porta fortuna e la lei crema penso gianduia che serve per... Senta, e Obama? Obama ma ha mangiato da me i facotelli. È venuto a mangiare da lei? Sì, Michelle ha scritto sul suo tweet che, o Facebook, non mi ricordo più, che la miglior pasta mai mangiata. Non è dimagrita, però. Senta, a Putin cosa gli facciamo mangiare? A Putin... il fiore di zucca, un piatto tradizionale mio con il caviale, molto solare perché il fiore è aperto, perché lì non c'è mai sole, e poi qualcosa che conosce il caviale. Giusto. A Renzi cosa facciamo mangiare? A Renzi faccio il tonno su papa pomodoro, pomodoro è il cibo di sua Toscana. E poi alla Boschi cosa le fa mangiare? Cacio pepe, che è un po' di dolce, un po' piccante. C'è un po' come lei, va bene, senta, ma... le faccio sentire questo file del film Il pranzo di Babette. Senta qua. Una scena per 12 al Café Anglais costerebbe 10.000 franchi. Ma cara Babette, non dovevate dar via tutti i vostri averi per amor nostro? No, non era solo per amor vostro. Così ora sarete povera per il resto dei vostri giorni. Un artista non è mai povero. Vabbè, non le ho chiesto quanto costa da lei, ma è vero che un artista non potrà mai essere povero? No, perché è ricco, ricco di anima. Sì, nella musica, parlando di ricchezza, esiste l'orecchio assoluto. E in cucina c'è un palato assoluto? Assoluto magari no, ma deve essere un palato che riesci a distinguere bene. Ma si può perdere l'ispirazione anche in cucina? Penso che si può dappertutto perdere l'ispirazione, e questo è poi bruttissimo. Speriamo che... Resta solo il mestiere quando si perde l'ispirazione. Sì, poi dipende quanto bravo sei nel mestiere per sopravvivere. Senta, ma al di là dell'arte, gli chef sono diventati improvvisamente famosissimi, imperversano in televisione. A lei piacciono i programmi di cucina? È un bel spettacolo. È un bello spettacolo? Sì, è da... Ok, ognuno può scegliere che cosa vedere, certo. Qualcosa di più spettacolare o più informativo. Ma secondo lei è un buon modo per iniziare a cucinare quello di fare programmi televisivi o no? Ma per avere l'ispirazione magari, e soprattutto di avvicinarsi alla cucina. Ma fanno bene alla cucina? Sì, alla fine fanno bene. Perché ci sono molto più nuove leve che vogliono fare questo infatti, lavoro. Tantissimi che si iscrivono alle scuole di cucina. Adesso tutti vogliono fare i cuochi perché è di moda. Sì, però hanno poi un'idea contorta del mestiere. Cioè? Perché pensano che è tutto spettacolo, invece la cucina è lavoro. Ecco, lei ha detto che nella sua cucina alleva talenti, quindi fa anche lei un po' di MasterChef. Tutti i giorni. Ma qual è la caratteristica indispensabile per diventare uno chef, non dico come lei, ma insomma avvicinarsi? L'umiltà e passione. Ma le donne sono cuoche migliori degli uomini? Sono più donne che fanno mangiare ai uomini che i uomini. Ma perché allora invece questi chef sono quasi tutti maschi? Perché è nella natura della donna che poi dopo un parto della carriera hanno figli e questa cosa interrompe la carriera e questo penso secondo me... Però donne sempre meno interrompono la carriera, mi sembra che continui sempre di più per fortuna. Senta. Infatti ultimamente abbiamo più brave chef donne. Infatti. Senta, ingredienti genuini, passione, tecnica, ma quanto conta la presentazione dei piatti? Anzi, le faccio sentire questo file, senta qua. Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola. Ecco, era Giancarlo Giannini che presentava come fosse un maître di un ristorante, come la Pergola, come il suo, le bellezze d'Italia. Ecco, lei la Pergola sceglie anche i camerieri? Sì. E li istruisce nel modo di presentare i piatti? È importante che loro conoscono i piatti. Perché, cioè, loro vivono la cucina prima di fare i camerieri? Sì, devono sapere tutte e due cose. E quanti siete in cucina voi? 20. 20? E 20 in sala. Ma chi fa chi? Cioè, ci sono i cuochi solo per i primi, quelli solo per i secondi, per i due? Come è divisa? Sì, sono divise in partite. Sono 5 antipasti, primi, secondi di carne, secondo di pesce e dolci. E lei cosa fa? Guarda. No, controllo e assaggio e comunque cucino tutti i giorni. Cucina tutti i giorni? Sì, e che piatti fa lei? A me piace molto fare la pasta, per esempio, mantecarla. Ovviamente il capo antimettiere, quello che è responsabile per la pasta, che fa tutte le preparazioni e poi manteca. Lei dà un tocco finale. Senta, Beck, lei ha detto: noi siamo quello che mangiamo, il cibo va usato come prevenzione. Quindi, in un certo senso, il cibo è il futuro della medicina, coincide? Sì, certo, prevenzione è importante. Noi siamo... Tanto, sì, siamo quello che mangiamo. Diciamo. Sì, siamo ciò che mangiamo esatto. E a questo punto è importante che diamo al nostro organismo sempre il cibo perfetto. Quindi, per non ammalare. Perché... Per non ammalarsi. Eh sì, perché è più facile a curare. Cioè, perché il cibo nutre ma ammala anche. Sì. Ma lei si sente anche un po' nutrizionista, quindi? No, i nutrizionisti sono... Un'altra cosa. Però lavoro tanto con i nutrizionisti che mi danno tanti consigli, perché ho un centro di ricerca dove lavoriamo molto... Dov'è questo centro di ricerca? Alla Cattolica. Al Gemelli di Roma. Sì. Senta, ma usa più elementi più alimenti cotti o crudi? Più crudi. Sì? Sì, sono più facili a digerire. Senta, le faccio sentire un altro file con Ugo Tognazzi, la Grand Bouffe. La difficoltà del piatto è stabilire il rapporto fra i sapori del vino e il punto di cottura di ogni tipo di fegato, il quale prima deve avere macerato nello stesso vino in cui verrà cucinato a metà cottura, perché la cottura definitiva si farà dentro una pasta sfoglia. Esatto. Va bene? Benissimo. Bene. Allora si comincia. Scusate un attimo. Dunque. Lo sherry per i polli. Piano piano. Così dolcemente intorno. Così basta. Il porto per l'anitra. Sì, sì. Benissimo. E lo champagne per l'oca. Voilà. Insomma, lo sherry per il pollo, lo champagne per l'oca sono superati oggi, no? No, queste sono tradizioni. Ah, tradizione, va bene. Va benissimo. Possiamo conservarlo. Ma bravo Tognazzi, sempre. Insomma. Bravo Ferreri, insomma. Ma come può venire in mente di mettere insieme, come ha fatto lei, il gelato e il tartufo? Quando l'ha pensato? Ma guarda, è un equilibrio di gusti. Ho fatto questo gelato alle macaron è fantastico insieme con il tartufo. Guarda, è un piatto vecchissimo, penso che ha almeno 15 anni. Senta, ma dopo tutti gli attacchi che ci sono stati, la carne la usa di meno lei? No, la carne è sempre buona. E quindi gli attacchi sono stati attacchi giustificati o no, secondo lei? Va bene, devono far pensare magari di produrre la carne in modo più naturale. Sì. Ma è vero che lei va a trovare spesso i suoi fornitori per valutare la genuinità dei prodotti? No, soprattutto di avere il rapporto giusto con loro. Col per motivarli, perché loro... i prodotti buoni li hanno tutti e scelgono loro a chi darli. Ecco. Meglio che me li... Quindi si fa raccomandare insomma, in qualche modo. Ma da dove arrivano le sue verdure, per esempio? Guarda, non tutti vengono dall'intorno di Roma, però cerco sempre di trovare più fornitori con distanze brevi. Ma chilometro zero è una cazzata, secondo lei, oppure sì? In una città come Roma, sì, perché è troppo grande per fare un chilometro zero. Però poi, se tu vivi in campagna, ovviamente il chilometro zero diventa interessante. All'Expo quest'anno, tra le altre cose, hanno presentato anche quelli che si chiamano i cibi del futuro. C'è chi sta già sperimentando alimenti a base di cavallette, di insetti. Lei che ne pensa? Interessante, non ho provato ancora. Non ha provato? No. No, ha paura di perdere una stella, con la cavalletta, anche arrosto, va bene. Ma ci arriveremo anche noi, secondo lei, o no? Sicuramente, perché sì, se lei pensa 20 anni fa, il sushi non ha mangiato nessuno, o ce lo mangia? Lei che tutto. Dice il sushi, le piace? Sì, sì, mi piace. Non tanto, lo vedo in faccia, non tanto. Va bene, dipende che cosa ho all'alternativa. All'alternativa, ecco, vabbè, mi pare che preferisce l'alternativa. È vero che ha una passione particolare per il cioccolato, lei. Eh sì, il cioccolato. Ma qual è il cioccolato più buono secondo lei? Fondente. Fondente. È sempre. È quello fatto da dove viene? Non diciamo il produttore, ma insomma, da dove viene? Noi da Torino. Uno toscano molto bravo. Sì, no, non da Torino, no. Che cioccolato usa lei? Solo fondente. Solo fondente. Non solo fondente, perché dipende anche da quello che sto cucinando, però io personalmente mangio fondente. Sì, lei mangia fondente, mangia tutto, mangia la pasta, ma è magrissimo. Come fa? Non vado dagli altri a mangiare. Senta, oltre alla cucina al cioccolato, ha anche un'altra passione, l'ho scoperto documentandomi. Senta qua. Maccherone, m'hai provocato... E io li distruggo adesso, io me ne mangio. Lei è un fan di Alberto Soldi, li ha visti tutti. Questo che film era, se lo ricorda? L'americano a Roma. E cosa le piace dei romani? Se le piace qualcosa? No, mi piacciono tantissimo, sono divertenti. No, e che cosa non le piace? Sia un po', si sbilanci un po'. Magari... Di Roma o dei romani? Dei romani. Ah no, dei romani, guarda, fortissimo, sono fighe, dai. E basta, sono fighe, basta, nessun basta. Difetto, mamma mia che venditore. Senta, lei cucina sempre per gli altri, per sé a casa cucina anche oppure non ne può più quando arriva? No, poco, ma è soprattutto cucina sua moglie? Sì. È lei che cucina? Sì, fa dei piatti molto buoni, pasta al forno, fantastico. Ah, sì. Senta, gli annellini parlemitani. Palermitani, sì. Senta, siamo a Natale, feste, pranzi, cenone, ci dà qualche idea. Il pranzo di Natale di Heinz Beck, come deve iniziare? Antipasto? L'antipasto è un crudo di pesce, perché è... Obbligatorio. Obbligatorio, è Natale, non si mangia carne. Il primo? Il primo è una bella pasta, una pasta... io farei anche una pasta al forno, perché... Perché adesso non con il ragù, magari con una pasta al forno alle verdure con il taleccio. Perché non mangiamo pesce. E poi alla fine un pesce al forno. Così puoi preparare tutto prima e lo inforni all'ultimo momento e possiamo stare tutti insieme a tavola, perché ecco. Natale per me è una festa di famiglia, stare insieme in famiglia. E capitone la cena di Natale ci deve essere o no? Sì, possiamo usare intermezzo, in campione magari. Senta, le faccio l'ultimissima domanda che decide la storia della sua vita, ma lei è per il panettone o per il pandoro? Sempre Pandoro. Va bene. Ma Pandoro. Con il cioccolato o senza? Ma questo è uguale, però anche con il cioccolato, ma Pandoro mille volte. Tutta la vita. Grazie. 800 24 00 24, numero verde 349-238-6666, SMS. Il 2016 segnerà la fine della crisi? Quello che è certo è che dopo 7 anni il paese è profondamente cambiato. Dai consumi al tempo libero, dai modelli di impresa alle abitudini alimentari, nulla tornerà come prima. Radio 24 vi porta in viaggio nell'Italia che verrà. Il venerdì nel GR delle 7 e la domenica nel reportage delle 8:15. Questo weekend, la spesa alimentare consapevole. Meno sprechi, più tradizione. Di Laura Bettini. Audiogrammi speciale Natale. Sei Alex Larson? Dipende da chi me lo chiede. T'ho mandato una lettera. Chi mi conosce non mi scrive, perché non so leggere. Per cui non posso conoscere uno che lo fa. I grandi classici del cinema e della letteratura raccontati alla radio. Il signor Davis ha detto che dare un'istruzione a una donna è utile quanto dare un'istruzione a una gatta. Il 24 e il 31 dicembre, tornate bambini. Vivrete le emozioni di due grandi storie, come mai le avete ascoltate. Deve tornare libero, è la sua magia. Vi aspettiamo il 24 e il 31 dicembre alle 22 su Radio 24. Audiogrammi, in radio come al cinema. Mix 24, storie di star. Gli ospiti di questa sera è un ospite, uno solo, è talmente eccezionale che non potevamo mescolarlo con altri ospiti, con altra gente. È niente di meno che l'attore, regista e, come tutti sanno, il capo delle Brigate Rosse, Ugo Tognazzi. Capo delle Brigate Rosse? Tutti pensano che fosse una cazzata, era vero, era il capo delle Brigate Rosse. È vero, vorrei sapere. Vero cosa? Lui col fatto di dire che era finto se l'è cavata, ma era il capo delle Brigate Rosse, ha organizzato tutto lui. È il 1979, in un'Italia devastata dal terrorismo, il settimanale satirico Il Male pubblica un titolo a tutta pagina. Il capo delle Brigate Rosse sarebbe lui, Ugo Tognazzi. Uno degli attori più amati e più popolari del cinema italiano. Una beffa, naturalmente, una beffa clamorosa che in anni di sangue riesce a strappare un sorriso. Ma Tognazzi era così, un eterno ragazzo, forse più irriverente che beffardo. Irriducibile nella sua voglia di divertirsi e di divertire, come raccontano i figli di Ugo, Ricky e Gianmarco Tognazzi. Io ero un ragazzo un po' discolo, diciamoci la verità. E lui però era più discolo di me. Secondo me fu un'idea per noi pericolosissima. Poi se ne pentì quasi immediatamente, perché insomma veramente sulle soglie del cattivo gusto e della provocazione. Però i primi due giorni in cui uscì la cosa, nelle edicole, la gente che probabilmente distratta passava e vedeva soltanto i titoli. Rimase sconvolto, infatti io arrivai a scuola e mi volevano linciare. E allora lui rivendicò, dice, rivendico il diritto alla cazzata, che è una bella battuta, ed è però una battuta che in qualche modo lo racconta Ugo Tognazzi. Lui ha sempre sfidato il buon senso, a volte il buon gusto, e non si è mai accontentato di fare una carriera facile. La sua esigenza era quella di cambiare sempre. Ed è questa la cosa che lo ha distinto dagli altri. In questo lui è stato coraggiosissimo, perché ha fatto i film di Marco Ferreri. Nessuno a quei tempi voleva fare i film di Marco Ferreri, che era considerato un regista maledetto. Tutti si chiedevano, dice, ma come mai? Dice, ma ci ho saputo che fai un film col matto. Insomma, erano tutti preoccupati di questa sua cosa. Ho fatto con Tognazzi la Perigina. E anche perché lui ha voluto farlo, perché nessuno mi conosceva quando ho fatto la Perigina. E lui si è fidato e ha detto sì, sì. Lui era già un grande attore. Che male, Grimbio! L'insegnamento più importante di mio papà è l'umiltà, è la gioia di vivere, è l'amore per le cose. Da un certo punto di vista l'amore anche per la trasgressione, per la particolarità, per la non banalità, il rischio. Ugo Tognazzi è stato sicuramente uno degli attori col più alto box office, quindi di maggiore successo, che ha rischiato di più. Che ha messo a repentaglio, nel momento in cui era l'attore più pagato d'Italia, l'anno in cui fece Romanzo Popolare, l'anno in cui fece Amici Miei, di candidarsi a fare un film in partecipazione gratis con uno come me, che veniva da due disastri assoluti, che da 4 anni era disoccupato, e al quale avevano detto: se vuoi continuare a lavorare devi cambiare nome. Io in realtà inseguivo Paolo Villaggio, che doveva fare il protagonista di questo film che si chiama La Mazurka del Barone da Santa Fico Fiorone, e che si era dato per defunto, cioè si negava. E finalmente scoprì attraverso mia madre che Paolo Villaggio avrebbe dovuto giocare al torneo di tennis che ogni anno il Tognazzi organizzava a Tor Vaianica. Quindi con la mia 500 andai a Tor Vaianica, bussai a questa porticina di questo cancello e si spalancò questo Pantheon dove c'era tutto il cinema italiano, cioè non ne mancava nessuno. Fra tutti questi, sfiorando Marcello Mastroianni piuttosto che Pietrangeli, Ferreri, Monicelli e Gassman, riuscì a individuare Villaggio, lo raggiunsi e gli dissi: mi devi firmare Ogni Padre del Copione, se no l'euro non mi fa fare il film, perché questa è la condizione. E Villaggio disse che non poteva farlo perché doveva giocare, appoggialo lì, io insistetti, capì che non l'avrebbe mai fatto, lasciai questo copione sul mobiletto del telefono di Formica. Tornai a Roma probabilmente piangendo. Dopo 15 giorni mia moglie, rientrando, mi disse una sera: telefonato Tognazzi da Parigi. Cos'era accaduto? Che nel momento in cui Tognazzi doveva andare a Parigi a girare Non toccare la donna bianca di Ferreri, disse a Franca Bettoia: c'è un copione di Bevilacqua, si chiama L'occhio del gatto, me lo metti nella valigia. E la Franca Bettoia sbagliò copione. Non vi è bastata la mitraglia? No, no. Praticamente questo motore, che si era spento definitivamente, nel senso che nessuno mi voleva più far lavorare, si è riacceso nel 1973 grazie alla generosità strepitosa, ineguagliabile, di Ugo Tognazzi. Lo abbiamo sentito dalle parole di Pupi Avati. Ugo Tognazzi è stato un attore generosissimo che anche negli anni di maggior successo non esita a mettersi in gioco, a rischiare, a cercare sempre nuove strade da interpretare. Classe 1922, scomparso nell'ottobre del 90, Tognazzi è uno dei grandissimi del cinema italiano. 150 film d'attore, 5 film da regista, 3 David di Donatello, una Palma d'Oro a Cannes, 5 Nastri d'Argento, con successi come Il Federale, Amici miei, La Voglia Matta, La Grande Abbuffata, La Marcia su Roma e poi ancora La Tragedia di un Uomo Ridicolo, Il Vizietto, Porcile, Romanzo Popolare, La Terrazza e tanti, tantissimi altri film. Quella di Ugo Tognazzi è la storia di un ragazzo nato a Cremona che, raccontando barzellette e imitando Totò in un dopolavoro ferroviario, ha imparato a vincere la timidezza e a sognare una carriera nello spettacolo, come raccontano Paolo Villaggio e Ettore Scola. Che dire di lui? Beh, lui aveva una qualità straordinaria che nessuno forse gli riconosce. Era molto, molto intelligente. Era tra i più intelligenti che ho conosciuto nella mia vita. Lui, pur non essendo gravido di studi o di letture, invece aveva una profondità di percezione che poi camuffava subito sotto questa virtù che era leggerezza. Una volta Costanzo mi ha detto: portamolo, e lo porto al famoso Teatro Parioli, dove c'era una platea di massaie, perché Costanzo riempie il teatro di massaie che fa venire con dei pullman dalla provincia italiana. Le massaie erano in attesa e lì c'era Tognazzi. E poi c'erano Sgarbi e Zecchi. Sgarbi e Zecchi, a una domanda di Costanzo, si sono azzannati. E hanno cominciato a parlare una neolingua. Cioè parlavano turco per le massaie, e Tognazzi era lì in un angolo, e dopo mezz'ora di questa specie di cannibalismo dei due intellettuali, Costanzo ha detto: ma scusi Tognazzi, ma è passata mezz'ora e lei non ha ancora detto una parola. E allora gli ha detto: dottore, scusi dottor Costanzo, io, data la mia ignoranza, pensi alla grandezza, io non ho ancora capito un cazzo. un'esplosione nucleare di massaia. È stato un momento, vi giuro, straordinario. E lui mi ha guardato e mi ha detto: perché ridono? E gli ho detto: riconoscenza. Posso dire di essere entrato a far parte della famiglia degli artisti a 18 anni? Sì, perché io a 18 anni ero un impiegato dattilografo al salumificio De Grodi. Anzi, vi sembrerà strano, ma chi mi spinse a intraprendere la carriera teatrale fu un certo ragionier Balzarini. Chiamavamo Bigio e la canzone faceva: Bigio, perché tutto il giorno io devo restare in ufficio, non posso fumare neanche una popolare. Su Radio 24, la storia di Ugo Tognazzi, dal teatro comico alla televisione degli albori, dopo la viabilità. Mix 24, storie di star. A Mix 24 stiamo raccontando la storia del genio comico di Ugo Tognazzi, attore che ha scritto tra le più belle pagine del cinema italiano, indimenticabile anche l'impronta che ha lasciato sul piccolo schermo. Dimmi cos'è quel grugnir di maiali laggiù, quell'odore che ogni tanto viene su un salumificio, non si poteva pretendere, non era un profumo, insomma, ammazzavano 500 maiali ogni mattina e noi avevamo proprio la presenza fonica di queste 500 uccisioni che erano così. Trovato! Adesso basta! Vada fuori a fare il comico! Lei è licenziato! Eravamo d'accordo, abbiamo fatto un sacco di puntate che sempre io a presentare, eccetera. Adesso no, un momento. C'era il mondo, se la vede un po' lui, no? Ma come me la vedo? Io sono qui come ospite. Ma vieni qua, scusa, ma perché devi star lì fuori? Cosa faccio da solo? No, il cappelletto, quello che si chiama, diciamo, il cappelletto. Cappelletto. Bella trovata. Ciribiribin, ciribiribin, ciribiribin, bling, bling, bling. Nel lontano 1954, dammi una mano sulle date, per favore. Dunque, sì, no, se cominciamo col teatro. Sì, cioè il nostro incontro. Se cominciamo col teatro, diciamo, il nostro incontro è avvenuto nel 1951-52, stagione 51-52. Dunque, noi siamo stati 5 anni insieme e poi bisogna dire una cosa, che durante questo periodo di teatro ci fu la chiamata... Posso fumare? Posso, vado avanti. Allora, dicevo che durante... Cerca che ti casca il microfono, è proprio uno. Non le sa fare certe cose. Allora, si vede che questo imbarazzo. Sì, guarda, quattro fumo chiamati dalla televisione a presentare l'1-2-3, che era uno spettacolo di numeri, di varietà. Questo spettacolo, no, non si mette qui, casomai qui. È finito. No, è lì, è che rimane coperto. Va bene. Questo spettacolo di varietà attraverso le nostre prevaricazioni, perché cominciamo a allargarci noi, diventò praticamente poi uno spettacolo nostro. Ma ti senti bene? Con l'avvento della televisione nel 1954, Ugo Tognazzi diventa un personaggio amato in tutto il paese. La sua trasmissione 1-2-3, condotta con Raimondo Vianello, è subito un grande successo, anche se non mancheranno le polemiche per la vena irridente dei due. Spiega come ci hanno cacciato via, vabbè, l'abbiamo già detto. È una cosa, no, oramai forse che sanno tutti. Venne in visita in Italia il presidente francese, allora era De Gaulle, fu ricevuto da Gronchi, andarono, non mi ricordo a quale teatro, si sono seduti e mentre De Gaulle ha trovato la sedia, la poltrona, Gronchi non la trovò e sparì dietro il parapetto. Ecco, noi logicamente, vista questa cosa, il giorno dopo andavamo in trasmissione, abbiamo fatto un accenno alla cosa, ci siamo fatti trovare in piedi anziché seduti a un tavolo, lui è caduto per terra quando siamo dovuti sedere. Tu e hai detto. Io ti ho detto: chi ti credi di essere? Io ti ho risposto: tutti possono cadere. Tutti possono cadere. E a questo punto abbiamo chiuso l'avventura con la Rai. Ma quella battuta, oggi così innocente, all'epoca scatena un putiferio. Alla Rai Ugo Tognazzi non ci tornerà più per un pezzo. Si chiude per lui così la stagione di 1-2-3, forse il programma più amato dagli italiani negli anni 50, insieme alla Sciaraddoppia. Ma la carriera di Tognazzi in ogni modo è a una svolta. Passato dall'avanspettacolo alla televisione, per lui adesso è il momento del grande salto nel cinema. Dopo una quarantina di pellicole di cassetta, più che altro parodie di genere, arriva finalmente il film che lo consacrerà tra i grandi del cinema italiano, è Il Federale di Luciano Salci. ma quel film segna anche la fine del sodalizio artistico con l'amico di sempre Raimondo Vianello. Volevo dire, ma come vi siete divisi? Infatti mica ancora questa domanda. Ah, non si può non dire. Non ci siamo mai divisi. Non ci siamo mai divisi. Anche perché non siamo mai stati sposati. Ma davvero sono stato io quando abbiamo fatto il federale, che sai che avevamo molte pressioni, ti ricordi? Sì. Perché l'altra parte la facesse Vianello, è un film di due uomini, no? Era intitolato Io e il federale. Il copione originale, io dovevo essere io, dovevo fare quell'onorevole e tu il federale, e tu mi dicesti guarda, vorrei fare una cosa un po' più seria, lasciamelo fare con un altro. Sì, e hai preso Wilson, quell'attore inglese, e io sono stato io. Ma è stata una scelta giusta, oculata e che ha dato dei frutti. Ma uno dei sodalizi di maggior successo di Ugo Tognazzi è quello con il maestro Mario Monicelli. Tognazzi ha avuto questa fortuna di infilarsi in questa commedia italiana e ha fatto la sua carriera, che nessuno si aspettava da quello che faceva in televisione. E lui non è stato chiamato. Quando l'ho chiamato io avrà detto, vabbè, questo adesso vieni, potevi pensarci prima in un certo senso. Aveva ragione. Dopo la separazione da Vianello, il federale è il grande successo che trasforma la carriera di Ugo Tognazzi. Dagli anni 60 in poi Tognazzi presta quel suo volto così normale, un po' segnato all'italiano del boom economico in una galleria di personaggi indimenticabili. È l'unico padano in un palcoscenico dominato da romani di nascita o di adozione come Sordi, Gassman, Manfredi e Mastroianni. È l'unico forse che riesce a portare sullo schermo, come dice lui, un unico personaggio di nome Tognazzi, che ha i suoi veri sentimenti, i suoi vizi, le sue virtù, la sua innocenza, la sua indecenza, la strepitosa vitalità e le insormontabili debolezze, come raccontano i suoi figli, ma anche i registi che lo hanno diretto sul set. La linea di frontiera di papà, anche a casa, nel suo lavoro, era tra la realtà, la finzione, il lavoro, il divertimento, il gioco, era sempre molto labile. Io penso che di riconoscere in tutti i personaggi che ha interpretato mio padre una parte di mio padre. Lui era un attore molto, che si dava molto, molto se stesso, non era un attore di scuola per cui aveva imparato le intonazioni, la gestualità, in una scuola drammatica. Un attore naturale, un uomo comune, capace di trasmettere al pubblico la sua semplicità. Ugo Tognazzi nel ricordo di Diego Batantuono e Lina Wertmüller. Tognazzi aveva questo vantaggio di sembrare sempre, in ogni film che faceva, una persona che tu potevi incontrare quotidianamente per strada e quindi rendeva credibile il personaggio, e la grandezza degli attori credo sia quella. Lui è sempre stato quello che a me piace molto, un attore, come dire, per tutte le stagioni. Lui qualsiasi storia facesse, qualsiasi regista, autore lo chiamasse, sia che fosse di un certo tipo, politica, storica, gialla, grottesca, comica, commedia. Senti, mi rifarti questo ultimo regalo. Non voglio regali! Lui era sempre pronto, era proprio un bell'attore nato, naturale. Lui era uno molto sincero, quindi nella sua sincerità c'erano anche delle cose sgradevoli, che lui non nascondeva. Quella era la sua forza. Comunque il ruolo dove lui era molto anche, per esempio se stesso, proprio Alta Infedeltà. Quel formaggiaro che lui faceva. Sono un commerciante di formaggi, di nome Bertolazzi. C'era bisogno di chiarirlo. Uno come me non può chiamarsi che Bertolazzi, commerciante di formaggi. Che si giocava la moglie al poker, che se la perdeva pure. Lui era uno di quelli che poteva fare una di quelle cose. Come disse anche Piccolì in un'intervista, forse il Tognazzi più vero si può scoprire proprio rivedendo la Gran Bouff. La Gran Bouff rappresenta in qualche modo l'estensione di tutte quelle che erano i vizi e gli amori da parte di nostro padre, più che degli altri tre interpreti, rispetto alla vita, cioè il cucinare, il mangiare, le donne, il morire, l'evacuare anche. Ferreri, non so chi rubò l'idea a chi, nel senso che vabbè, però indubbiamente Marco arrivò un giorno a casa nostra e disse a papà, disse voglio fare un film, la storia dei quattro, perché lui ci parlava in questo modo strano. Mangia. Se tu non mangi, tu non puoi morire. È vero che lui portava parte del personaggio Tognazzi nei personaggi che interpretava, ma è vero anche che certe volte i personaggi tornavano a casa con lui. Anche quando fece il vizietto, lui per abitudine, per vezzo, un po' per opportunismo, diciamoci pure la verità, si faceva regalare i vestiti di scena, no? Imburra la tua fetta biscottata, su, imburra. Vediamo un po'. Cominciamo a vedere come imburri da massa. Sì, da massa! E fin lì tutto a posto, però quando anche lì durante il vizietto riportò a casa vestiti color pistacchio, color rosa madreperla, eccetera, e quindi passò tutta un'intera stagione vestito da vizietto. Allora tu sarai con me, tu mi vuoi uccidere, vero? Vuoi vedermi morto così, vecchio troione incapace? Il vizietto è un grande successo, ma il film che ha rilanciato la vena comica e corrosiva di Tognazzi è Amici miei, diretto da Mario Monicelli. Quando un attore è un grande attore, le cose vanno tutte benissimo e facilmente. Sono il conte Mascetti. Sicché ci casca ancora, eh? Ci casca, ci crede. E che altro potrebbe fare, povera martire, con tutto quello che le faccio passare? C'hanno solo due cipolle da mangiare per oggi. Beh, meglio così, così stanno in pensiero e gli passa anche l'appetito. Ma il successo del tuo film è, ve lo dico, lo so qual è, lo so io, lo sappiamo quelli che l'hanno scritto. Intanto che queste beffe erano beffe molto carine, eccetera, ma erano beffe, erano delle leggende metropolitane. A Firenze si raccontavano queste cose, quelli che facevano schiaffi alla stazione. Ma un viaggio, signore! Aio, Gesù! Il conte Mascetti era un nostro amico, lui sapeva fare quella cosa lì in maniera, non avete idea, come Tognazzi non ha mai saputo fare. Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? Quindi non era tanto nelle invenzioni di quello che avveniva, ma nel fatto che era fatto non da goliardi, da ragazzi nacci come si fa adesso, di 22-23 anni, da ragazzine, da persone affermate, da professionisti. Quella era la cosa che faceva effetto e ha fatto il successo fuori dal normale del film. E nel 75, infatti, Amici miei in Italia incassa perfino più dello Squalo di Spielberg. È un successo senza precedenti che rimane nella storia del cinema, subito dopo la pubblicità.